Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa nuova trasmissione di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che vi presenta subito il menù. Prima una chiacchierata con Paolo Gallinari, che questa volta abbiamo intercettato in qualità del rappresentante della Direzione Nazionale dell'Arci Ragazzi e soprattutto come allora un giovane militante dell'educazione per ragazzi che ha incrociato Carlo Pagliarini, che è sicuramente un personaggio su cui il CRAP sta molto indagando, anche perché è in procinto di pubblicare delle memorie dello stesso Carlo Pagliarini rispetto alla sua esperienza importante dell'Associazione Pionieri Italiani e dei suoi incontri con Gianni Rodari. Quindi la parola a Paolo Gallinari all'inizio, interpellato da Morena Moretti come sempre, e a seguire l'Associazione Iucali ci presenta questo testo di Gianni Rodari, Giacomo di Cristallo e altre storie, però in una versione molto particolare, perché oltre a questa storia ce ne raccolgono altre quattro, ovvero sia Teresin che non cresceva, La casa di Trebottoni, Remi del brigante Filone, la principessa Allegra, dedicata questa edizione ai lettori con disabilità linguistiche e cognitive, quindi tradotte queste parole in simboli. Un'esperienza interessante, direi molto rodariana, che Iucali investigherà parlando con la responsabile della casa editrice. Comunque subito, dopo lo stacco musicale, la parola a Paolo Gallinari. Paolo Gallinari, tu sei stato anche presidente di Arci Ragazzi Emilia Romagna negli anni Ottanta, quindi hai avuto modo di conoscere bene Carlo Pagliarini, che fu tra i fondatori, ma soprattutto fu lui a volere questa associazione di ragazzi. Sì, Carlo Pagliarini veniva naturalmente dall'Associazione Pioniere d'Italia e quindi aveva un'esperienza e un'idea abbastanza precisa di quello che vuol dire l'associazionismo per i ragazzi. Quando diventò dirigente dell'Arci, per un po' si era occupato di spettacoli, soprattutto sul versante dei rapporti internazionali per l'Arci, poi a un certo punto tornò la voglia di impegnarsi per formare nuovamente un'associazione laica e di sinistra per i ragazzi, partendo dalla sua esperienza all'interno dell'Arci. Ricordo esattamente l'occasione in cui lo incontrai, era un convegno che si tenne in Val d'Aosta, che aveva come, non mi ricordo neanche francamente il tema, ma riguardava il tempo libero dei ragazzi. Fu in quell'occasione che c'erano dei gruppi di lavoro, trovai il gruppo di lavoro assieme a Carlo Pagliarini, io dichiarai di essere dell'Arci A, cosa stranissima, perché qual era la mia esperienza? Che dal 1971 sostanzialmente avevo cominciato a partecipare a questa esperienza che era il campeggio dei pionieri di Casalino di Livon, che fu l'Appennino Reggiano. I pionieri in realtà non avrebbero già dovuto esserci più da un pezzo, quanto l'Associazione Pionieri d'Italia era stata sciolta, ma a Reggio c'era un nucleo, chiamiamolo così, di resistenza. da ragazzino che partecipava alle esperienze di questo campeggio, poi si cercava di coinvolgere i ragazzi fin dai 14 anni in ruoli più attivi, quindi diciamo così partecipante al campeggio ho diventato aiuto monitore, poi monitore, come ci chiamavamo allora, e quindi cominciai a partecipare un po' da protagonista, organizzatore, alle attività prima del campeggio e poi successivamente anche quelle che si facevano a casa sul territorio, sempre appoggiandosi di solito o a circoli arti o circoli udi o a case del popolo, insomma. E queste cose avvenivano naturalmente sulla base dei contatti con l'Arci di Reggio Emilia. A un certo punto si disse, vabbè, c'è questo nucleo di persone che fanno questo campeggio Casalino di Rironchio e che cominciano a fare riferimento all'Arci e quindi sono coinvolte nel momento in cui l'Arci vi organizza o viene chiamata a partecipare a iniziative che riguardano il tempo libero dei ragazzi. A un certo punto mi dissero, mette questo convegno a Saint-Pierre in Val d'Aosta, ci vuoi andare perché là ci sta lavorando per costruire una nuova sezione, allora potremmo dire, chiamiamo così, del lavoro dell'Arci sui ragazzi, e così conobbi Carlo Pagliarini, dopo che mi ero probabilmente quasi inventato la definizione Arci Api, che ovviamente non è mai esistita, penso di essermi segnato così sul foglietto che girava per identificare i partecipanti al convegno, al gruppo di lavoro. Alla fine del gruppo di lavoro si disse, ma allora facciamo un gruppetto di sintesi per buttare giù un documento alla fine di questo convegno, e Pagliarini disse, ma nel gruppo mettiamoci anche il compagno dell'Arci Api, e così comincio la mia conoscenza con Carlo Pagliarini. E Carlo Pagliarini, quindi tu lo consideri, lo hai considerato, almeno leggendo anche altre tue interviste, un maestro, ma da che punto di vista? Lui Pagliarini voleva, con l'API aveva cercato di farlo ed c'era anche riuscito, un'associazione per i ragazzi che fosse un'associazione in qualche modo legata ai valori della sinistra, ai valori della resistenza, della Costituzione, insomma per la formazione di una generazione di ragazzi democratici. Quindi tu comunque da lui hai imparato questo tipo di approccio? L'approccio che posso dire di avere appreso da Carlo Pagliarini e dal suo lavoro nell'Arci Ragazzi è stato soprattutto quello di lavorare per progetti, cioè di lavorare avendo presente sì un obiettivo finale, che magari poi non si raggiunge. L'obiettivo finale era fare una grande associazione per laica e di sinistra dei ragazzi in Italia. Allora, l'obiettivo non è stato raggiunto, o meglio, non è stato raggiunto l'obiettivo di fare una grande associazione di sinistra per i ragazzi, perché le ragazze sono abbastanza confinate in numeri piuttosto ristretti, ma il percorso per cercare di arrivarci è stato un percorso molto bello, molto fecondo, molto pieno di episodi, ma anche di struttura. Voglio dire, questa idea di Pagliarini di mettere assieme e trovare compagni di strada, di man mano che si faceva la strada, quindi ogni volta si facevano dei convegni, prima dell'Arci Ragazzi, quando si è formata l'Arci Ragazzi, dopo la fondazione nell'Arci Ragazzi, e cominciare a ragionare per progetti, non solo l'idea in quanto tale, ma progettare situazioni che potessero diventare ripetibili sulla base di una struttura, di un modo di procedere, di buone pratiche, ci direbbe adesso, no? Ecco, questo l'ho imparato da lui. Io venivo da un'esperienza, per l'appunto, questa dei campeggi, dove alla base c'era un po' di programmazione, però non nego che molto si improvvisava alla fine, poi con i ragazzi alla fine, non penso che sia sbagliato anche improvvisare sulla base del rapporto che poi riesci a realizzare con bambini e ragazzi. E quest'idea quindi di cominciare a ragionare sulla base di un progetto che avesse un'idea alla base, ma poi un modo per svolgerlo, una tappe successive, poi arrivare a realizzare un obiettivo per quanto parziale fosse, la cosa sicuramente che mi è rimasta più impressa di Pagliarini. La grande idea, che era quella di prendere la situazione dei ragazzi in Italia e di farla diventare una grande associazione, è stato un grande progetto e un bel sogno, ha incontrato sicuramente i diversi ostacoli. Paolo Gallinari, quindi la scuola non era sufficiente, era necessario per la formazione dei giovani, secondo questa visione, proprio un associazionismo fuori dalla scuola e anche in alternativa poi all'associazionismo quello cattolico. Quello che a un certo punto si era dichiarato come obiettivo, al di là della questione del fondare e far sviluppare un'associazione laica di sinistra per i ragazzi, era quello di trovare in questo progetto sì degli alleati, ma soprattutto un ambiente favorevole nel quale potesse svilupparsi. Dai contatti che poi Carlo aveva un sacco di contatti in giro con pedagogisti italiani, stranieri, esperienti, tipo, c'era questo in particolare con l'Università di Bologna, con Franco Frabboni, che ha partorito questa idea del sistema formativo integrato, prima era quella che sosteneva Frabboni e che dopo l'incontro con Pagliarini divenne il sistema formativo allargato. Cioè, cosa voleva dire? Voleva dire che il sistema formativo non è solo e tanto composto dalle agenzie formative classiche istituzionali, la scuola, l'università, prima ancora la scuola dell'infanzia o i nidi, che io vengo da Reggio Emilia, e quando parliamo di nidi parliamo di Loris Managuzzi, le scuole più belle del mondo, bla bla bla, ma il sistema formativo può essere allargato per l'appunto dall'intervento di agenzie extrascolastiche, come poteva essere per l'appunto un'associazione che si occupa per ragazzi, che a sua volta si possa intrecciare con le attività sportive, ad esempio svolte nei centri dell'UISTO o di altre associazioni sportive, che si può integrare con le attività svolte da altre associazioni che si occupano di ragazzi, quindi anche quelle più, diciamo, che una volta erano gli avversari dei pionieri, no? Anche le associazioni di stampo cattolico. Oltre al sistema formativo allargato, era proprio per cercare di non mettere in contrapposizione il sistema formativo istituzionale, educativo, tipico quello della scuola, ma quello di farne un potenziale alleato o comunque del dichiararsi complementari rispetto a un sistema formativo, quindi non è che andasse combattuto, andava semplicemente individuato quali erano i punti deboli di un sistema formativo di quel tipo. Io che venivo da Reggio Emilia, ero allora presidente degli Arci Ragazzi, mi trovavo in gravissima difficoltà al momento in cui il contraltare dell'Arci Ragazzi era il sistema formativo composto dai nidi e le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, cioè come dire la corazzata Potion, e tutte le volte che ci si confrontava era un confronto Davide e Golia, ma al quale io ponevo un concetto: bene, a Reggio Emilia c'è un bellissimo sistema che riguarda le scuole degli infanti, i bambini fin dai 2 anni hanno la mente aperta, il bambino come alieno che viene dal futuro, che quindi ha tutte le possibilità davanti a sé aperte, eccetera, però c'era un problema: questo sistema si fermava ai 5 anni, ai 6 anni, dopo cominciava un sistema che era quello elementari, classiche, dove poi questi stimoli e tutta questa considerazione del bambino, tutta questa attenzione alla sua creatività in realtà veniva improvvisamente meno, e quello che noi tendevamo a sottolineare era: bene il sistema formativo prescolastico con tutte queste belle cose che si fanno a Reggio Emilia, ma a Reggio Emilia c'è un problema dopo i 6 anni che fanno i bambini nel loro tempo libero? Perché nessuno pensa a dare una continuazione alle tante belle cose che si fanno dal punto di vista creativo negli asili più belli del mondo? Questo problema, Paolo Gallinari, secondo te, che hai anche questa esperienza dell'associazionismo così importante, è ancora di attualità questo nodo? Più che mai, noi che abbiamo avuto questa esperienza, prima del campeggio dei pionieri a Reggio Emilia, poi allargando la questione dell'esperienza all'Arci Ragazzi in tutta Italia, ci siamo ritrovati poi, avendo dei figli, non io, ma voglio dire da mia sorella, amici, che si sono trovati poi ad avere dei figli, i quali attualmente, parlo anche per mia nipote che ormai ha 20 anni, ma che da quando ne ha 9, va alle attività C&J, quindi gli scout laici di Reggio Emilia, come a dire abbiamo ammainato la bandiera, cioè alla fine ci siamo dovuti rivolgere all'associazionismo scoutistico, che tutto sommato era quello più affine anche alle attività che venivano svolte dell'associazione dei pionieri. In qualche modo ci si è rivolte a agenzie educative extrascolastiche simili a indicare che se queste comunque resistono ancora, questo problema dei ragazzi, della loro crescita, al di là di quella che è la formazione scolastica, sicuramente è un problema che esiste ancora. È una questione con cui la sinistra un po' ha ammainato, dal tempi forse del Pioniere, da quando fu chiuso nel 60 questa associazione, e anche per una disattenzione continua negli anni rispetto alle organizzazioni per adolescenti e giovanili, come poteva essere l'ARCI negli anni successivi. Sì, diciamo che in qualche senso, in qualche modo, c'era già nell'aria un'idea che era quella dell'impossibilità in Italia comunque di arrivare a delle chiare maggioranze di sinistra, chiamiamole così, o di alleanze di sinistra, e quindi della necessità che poi via via si è fatta l'arma dal punto di vista politico generale fino all'idea del compromesso storico, cioè quella che nell'ambito di una società così complessa come quella che si è poi sviluppata dal miracolo economico in poi, ma negli anni 70 e 80 in particolare, che probabilmente sarebbe stato difficile ribaltare dal punto di vista politico numeri di una situazione che si era andata poi configurando in maniera abbastanza chiara anche geograficamente, quindi che tutto sommato poi ci poteva essere anche, non dico una ripartizione dei compiti all'interno di un'idea di società dove i contrasti e le opposizioni feroci dal punto di vista politico si andavano smussando, ma dove tutto sommato uno diceva vabbè, sai che c'è, che poi le organizzazioni cattoliche hanno secoli di esperienza dal punto di vista del lavoro educativo con i ragazzi, quello della sinistra con i ragazzi è stato un lavoro faticoso che ha anche prodotto tutto sommato abbastanza poco, tutto sommato c'è chi ha un'esperienza più valida in un campo piuttosto che in un'altra, probabilmente su quel campo si è un po' rinunciato. Come rendere accessibili le fiabe di Rodari anche a chi ha disabilità linguistiche e cognitive. Ci sta provando una casa editrice, la Meridiana, con un volume appena uscito per la collana Parimenti dal titolo Giacomo di Cristallo e altre storie, che traduce in linguaggio dei simboli 5 storie rodariane. La direttrice della casa editrice, la Meridiana, Elvira Zaccagnino, ci parlerà della traduzione in simboli di queste storie. Volevamo sapere com'è nato e come sono state scelte le storie di Rodari da tradurre in simboli per i giovani lettori con disabilità. Il libro nasce in un progetto della nostra casa editrice insieme al CDH Parlante di Bologna e alla cooperativa Arca Arcobaleno, sempre di Bologna, di Granarolo, della zona di Bologna. La collana è una collana accessibile, che parte dall'idea che tutti hanno il diritto alla lettura. Questo è un concetto che Gianni Rodari, insomma, ci ha fatto conoscere sin da bambini. È una collana in simboli perché può sembrare paradossale, ma non tutti possono leggere come leggiamo noi, cioè leggiamo le parole e capiamo il senso e il significato. Ci sono persone, bambini e anche giovani adulti, che invece riescono a collegare il suono al simbolo, e quindi da alcuni anni l'editoria italiana, anche nell'editoria italiana ci sono libri in simboli che si definiscono libri della comunicazione aumentata alternativa. Noi abbiamo scelto di pubblicarli nella collana Parimenti in occasione del centenario di Gianni Rodari. Il gruppo di lavoro del CDH Caparlante, il laboratorio di scrittura Librasti, aveva cominciato a cimentarsi con alcune storie di Gianni Rodari, ne ha scelte 5 e quindi li abbiamo poi pubblicate nel libro, appunto, Giacomo di Cristallo e altre storie. Le storie nel libro sono 5. Teresin, che non cresceva, è appunto una di queste e chiude il libro. Le altre storie poi sono La casa dei tre bottoni, Remida, il brigante Filone, La principessa Allegra. Questo libro è finalizzato all'accessibilità delle storie. Cosa significa per una casa editrice come la vostra rendere i libri accessibili a tutti superando le barriere? Per noi significa fare una scelta, posso dirlo, più che culturale, politica. Questo è il senso con cui abbiamo scelto di fare questa collana. Politica nel senso di rendere anche declinati al presente i diritti della nostra Costituzione, che dice insomma che la cultura, l'accessibilità, la partecipazione di tutti i cittadini è un diritto costituzionale, e la letteratura, l'accesso alla letteratura, alla bellezza della letteratura, è un diritto di cittadinanza. Quindi per noi pubblicare questi libri significa dare il nostro contributo a che tutte le persone di ogni età, di ogni ceto sociale, possano accedere alla bellezza della letteratura. Insomma, Gianni Rodari, quando noi lo leggiamo, lo ascoltiamo dalla lettura di grandi attori, anche quando l'abbiamo ascoltato da piccoli dai nostri genitori, ci ha proprio scaldato il cuore. Questa bellezza è una bellezza che deve essere condivisa, è un diritto. Per noi fare questi libri significa riconoscere il diritto di tutti alla lettura e alla letteratura, alla bella letteratura. Stiamo celebrando un centenario importante, che è quello della nascita di Gianni Rodari. Le chiedo personalmente, che cosa si porta nel suo lavoro abituale in casa editrice dell'insegnamento rodariano, come scrittore, poeta, pedagogista, se si porta qualcosa di rodariano nel suo lavoro? Allora, sicuramente la curiosità. La curiosità di intraprendere strade nuove e di provare a vedere le cose storte in maniera significativa. Questo, diciamo, è lo sguardo bilenco di Gianni Rodari, che credo sia una cosa che, diciamo, mi sta dentro, e sta dentro anche al percorso che come casa editrice proviamo a fare, e quindi a sperimentare, a trovare nuove, a guardare, diciamo, quello che solitamente vediamo anche come sbagliato, e che invece o l'errore, che invece può essere l'inizio di nuovi percorsi. E poi c'è una cosa che Rodari è uno di quelle letture, di quegli autori che ogni volta che lo leggi ti affascina per qualcosa di nuovo. I testi sono sempre quelli da anni, chissà quante volte li abbiamo letti, però ogni volta ci soffermiamo a scoprire qualcosa di nuovo. Ieri, mentre rileggevo anche per i diversi post, per i diversi interventi che abbiamo fatto su Gianni, proprio Giacomo di Cristallo, che è la storia che apre il nostro libro, che dà il titolo al libro, c'è un'espressione che mi è sembrata fantastica, riferita proprio, scritta da Gianni Rodari e riferita a Giacomo, quando si dice che Giacomo di nascosto, Giacomo ogni volta che apriva bocca diceva delle cose e i suoi pensieri parlavano anche quando non apriva bocca, e di nascosto la gente poi si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Quell'espressione prendere speranza ieri mi ha proprio folgorata, perché chissà quante volte l'ho letta questa storia, però questo prendere speranza, che credo che sia una cosa che proviamo a fare anche nel nostro lavoro con la nostra casa editrice, con questi libri, e credo che oggi ci sia molto molto bisogno, perché oggi tutto ci fa prendere paura, e siamo nel momento in cui prendiamo paura, e invece questa storia, questo libro ci può aiutare a prendere speranza. Prima di lasciarla, le vorrei chiedere, visto che è direttrice generale commerciale della casa editrice, che exit strategy state mettendo in atto per emergere dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria e rilanciare i vostri titoli vecchi e nuovi? Allora, noi abbiamo un po' la fortuna di essere editori di catalogo, quindi diciamo tutti quanti i nostri libri sono dei libri sempre disponibili e sempre attuali. Fin dall'inizio noi abbiamo investito molto nel tenere più forti le reti di contatto con i nostri lettori e con i nostri autori, facendo in modo che si incontrassero ancora di più attraverso il web. Quindi la nostra pagina, come anche il nostro blog, la nostra newsletter, sono diventati ancora di più dei luoghi dove incontrarci e dove generare comunità di apprendimento reciproco, perché questo è un momento nel quale nella distanza fisica dobbiamo invece avvicinarci socialmente, perché la pandemia ci insegna, insomma, che dobbiamo cambiare un po' il paradigma nel quale siamo sempre stati, provare insieme a cercarne e ad agirne uno migliore, più inclusivo. Si potrebbe andare tutti quanti al mare a Viareggio. Si può prendere il treno alle 9, sia lì per le 10. Ci si ferma in un bar a comprare la schiaccia o ceci. Ah già che scemo c'è qui a Urbino e non ce la fa. E non si può. E non si può. Ma non si può. Ma perché c'è il treno, è un casino la rozzina. Ma poi, ma che te ne frega te d'andare a Viareggio. Si possono fare un sacco di cose più ganze. Tipo, si potrebbe andare tutti quanti a vedere la viola. C'è il 14 ferma mi pare davanti allo stadio. Per sentire il commento magari si porta una radio. Ah già che fava c'è qui a Ovino e non ce la fa. E non si può. E non si può. Ma non si può. Ma perché l'autobus non sempre c'ha le pedane a Ovino. Poi magari c'è un casino di gente. Ma che te ne frega te d'andare a vedere la Fiorentina. Si potrebbe andare tutti quanti a casa di Marco. Non sa mica bisogno di uscire per essere felici. E ci basta passare così una serata tra amici. Oddio che grullo c'è qui a Urbino e non ce la fa. E non si può. E non si può. E non si può. Ma perché Marco sta all'ultimo piano e a Urbino non c'è l'ascensore? Come si fa? Ma boh, ma che te ne frega te di andare a casa di Marco? Si possono fare un sacco di altre cose. Si potrebbe allora cantare qualcosa che piaccia alla gente. Sperare la gente lo veda e si fermi a pensare. Che magari così poi ne parlano al telegiornale. Vedere se cambia qualcosa e l'effetto che fa. Per vedere se cambia qualcosa e l'effetto che fa. Canto anch'io! Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti! Canto anch'io!